di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Bentornati ai figli di Enea, questa sera parliamo di un romanzo, La linea del colore, pubblicato per Bompiani proprio da pochi giorni. La sua autrice, la scrittrice è Ijaba Scego, alla quale do il benvenuto. Benvenuta, buonasera Ijaba. Buonasera a tutti. La linea del colore, che tra l'altro è già stato tradotto per il mercato degli Stati Uniti, quindi già sta avendo un grande successo, inizia con una battaglia ad Ogali in Eritrea nel 1887. 500 soldati italiani vengono uccisi dalle truppe etiopi che cercano di contrastarne le mire coloniali. E questa grande sconfitta italiana porta a un'ondata di sdegno che invade della città di Roma, e in quel momento a Roma c'è la Fanu Brown, una pittrice di origine afroamericana che sta rientrando dalla sua passeggiata. La Fanu ama moltissimo Roma, ma poiché la sua pelle è nera, su di lei si riversa la rabbia della folla, finché un uomo la porta in salvo. Questo romanzo racconta su diversi piani la storia di tre donne. Una è la Fanu Brown, questa pittrice nera che vive a Roma e che è arrivata in Europa con il Grand Tour alla ricerca della bellezza, dell'arte. Un'altra è una donna contemporanea, Leila, che tesse i fili tra il passato e il presente perché è una curatrice d'arte, sta studiando proprio la Fanu Brown. E un'altra ancora è la cugina di Leila, una migrante somala che sta per arrivare in Italia. So che tu hai lavorato per il personaggio di La Fanu Brown su due personaggi storici realmente esistiti. Chi erano? Edmonia Lewis, che era una scultrice, e Sarah Park Raymond, che era appunto un'attivista, e in Italia è diventata anche ostetrica a un certo punto. E entrambe sono vissute a Roma. Sarah Park è addirittura morta a Roma, tanto che c'è una targa dedicata a lei al cimitero cattolico. Allora, io chiaramente mi sono ispirata molto a loro, però le ho dovute tradire entrambe, creando un personaggio di finzione che è la mia personaggia, la Fanu Brown, che vive a Roma nel XIX secolo e che nel suo percorso di vita incontra violenza, discriminazione, ma anche voglia di farcela, di diventare un'artista, perché poi il libro è la lotta per coronare il proprio sogno, a scapito anche dell'amore in questo senso, e illumina, e questo per me era molto importante, come nei romanzi del Grand Tour, illumina l'Italia, però la vede da un altro punto di vista, da un punto di vista anche di una donna nera, quindi quello che vede la Fanu Brown è la Black Italy, no? E succedono tante cose nel romanzo, nella parte ottocentesca, proprio rifiuti, amori contrastati, difficoltà, sogni, piroscafi, però ecco la parte moderna, che appunto è dedicata invece a Leila, una curatrice d'arte che si imbatte in questa figura di La Fanu Brown e decide di fare una mostra su di lei, e quindi a un certo punto cosa succede a Leila? Mentre sta pensando alla Fanu, sua cugina dalla Somalia fa il viaggio dei migranti, quello che sappiamo, quello che conosciamo, attraverso il deserto del Sahara, pagando i trafficanti. Quindi il libro io l'ho concepito molto come una riflessione sul viaggio e sui sogni. Considero il mio romanzo un affresco al femminile, perché in realtà le protagoniste anche, e ci sono molte donne che non sono di origine afrodiscendente in questo romanzo, tipo Bethesda McKenzie, Lisa Manson e altre, che però danno un affetto sul femminile. Cioè io ho concepito questo romanzo come proprio le donne che lottano per coronare i loro sogni e le difficoltà che trovano e anche gli errori che fanno, no? E questo per me era molto importante, e come era molto importante proprio illuminare la Black Italy. Infatti la Fanu si porta dietro i suoi taccuini e vede che infatti uno dei centri del romanzo è una fontana che si trova a Marino, ai castelli romani, è la fontana della famosa canzone romanesca che dà il vino. Però se uno appunto va a vedere la fontana, trova quattro schiavi incatenati, e tra cui due donne in odor di stupro, come dico io. Allora è chiaro che c'è uno sforzo in questo libro di far vedere quello che è davanti ai nostri occhi che non vediamo, e soprattutto io ho collegato quella fontana di Marino alle tante donne nere che hanno sofferto nella storia e come soffre oggi Vinti, cioè Vinti è un po' un'esemplificazione delle tante donne che fanno il viaggio della migrazione, non perché vogliono emigrare, a volte vogliono soltanto muoversi. Cioè, è un libro che parla di disuguaglianze, di disuguaglianze sia di classe, di appartenenza, ma anche disuguaglianze di viaggio. No, io e te abbiamo un passaporto forte, possiamo muoverci ovunque. Tante ragazze come Vinti non hanno la possibilità, perché il passaporto è considerato carta igienica. Allora forse dobbiamo cominciare a lavorare su un viaggio legale, su una modalità diversa di concepire questo viaggio dei migranti, togliere questo business ai trafficanti. Allora io, è chiaro, ho complicato il quadro, cioè attraverso il viaggio ottocentesco ho cercato di illuminare il viaggio di oggi. È un tema, quello dei passaporti, molto forte. So che io come te siamo appassionate a questo sito Passport Index. Molto spesso però io mi trovo di fronte, forse capita anche a te, a interlocutori, pubblico, persone che ignorano il fatto che ci siano dei passaporti fragili, che non hanno valore, che sono carta straccia, che quindi il viaggio non sia possibile per altre vie che il mare. Hai anche tu questa sensazione nelle presentazioni, negli incontri che fai? Certamente, per questo ho concepito questo libro, perché ho pensato, ok, se non riusciamo a spiegarlo con un reportage, ne abbiamo scritti tantissimi, allora cominciamo a lavorare sull'idea del viaggio, sul desiderio del viaggio. E non è un caso che ho scelto questo frame del Grand Tour, no? Perché appunto il Grand Tour era il viaggio della borghesia e anche dell'aristocrazia verso l'Italia soprattutto, ma anche verso l'Oriente. È un viaggio studio, un viaggio culturale, un viaggio di iniziazione, e quando appunto questo viaggio era per corpi di elite, e vederlo però dal punto di vista di una donna nera è comunque rovesciare il quadro del viaggio, no? E io non è che mi sono inventata la donna nera, cioè poteva essere un libro di fantascienza, invece effettivamente molte delle cose che racconto sono avvenute e sono accadute alle vere protagoniste, cioè quelle a cui mi sono ispirata. Per esempio, quando parlo, cioè a un certo punto parlo di tutta una difficoltà di documenti per avere un visto di uscita verso l'Italia, questo è successo a Sarah Parker Raymond. Cioè in qualche modo ho rivisto il viaggio di oggi attraverso il loro viaggio di allora, in qualche modo, perché è sempre stato per i corpi soprattutto afrodiscendenti, ma non solo, il viaggio è sempre stato qualcosa di negato. E quindi ho lavorato molto anche documentandomi sul Grand Tour, ho letto tantissimo, ho cercato anche di studiare molto la mia città. E poi una cosa a cui ci tenevo tantissimo era l'idea d'Italia, perché qui escono tante Italie, escono l'Italia del desiderio, dell'idea, ma quindi di quell'Italia che in qualche modo si forma attraverso la sua arte, ma c'è anche l'Italia coloniale che guasta la bellezza dell'Italia, no? E non è un caso che ho fatto il prologo sul colonialismo italiano. Noi pensiamo sempre che il colonialismo è stato Mussolini, certo è stato anche Mussolini, ma il colonialismo è cominciato nell'Ottocento, quindi c'è questa Italia ottocentesca coloniale molto feroce, e quindi c'è anche quello, e c'è l'Italia come potrebbe essere, no? Un luogo in cui invece le nostre pluralità possono dialogare. Io è un libro che dedico al mio paese, l'Italia. Io penso di averne due di paesi, la Somalia e l'Italia. C'è una pagina al capitolo 7 che a cui tengo veramente tantissimo, che è proprio una descrizione d'amore, quasi una lettera d'amore a questo paese, perché poi la FANU lo ama, no? Lo ama, lo desidera e potrebbe essere qualcosa di fantastico, no? Invece la nostra quotidianità purtroppo ci fa vedere un'Italia un po' più scura, più triste, e quindi io ho voluto anche scrivere il libro per l'Italia, perché vorrei che diventasse quello che potrebbe essere, un paese sicuramente migliore per tutti noi. Una piccola pausa, ma torniamo con Hijaba Shego tra pochissimo. I figli di Enea. Bentornati, stiamo parlando questa sera con Hijaba Shego del suo romanzo La linea del colore, romanzo che inizia, come abbiamo detto, con questa battaglia di Dogali in Eritrea, dove vengono sconfitti gli italiani, ci sono centinaia di morti, ci sono anche dei superstiti. Fra questi superstiti mi ha colpito molto la figura di questo Franco Mussi, un pastore di capre che era stato mandato come altri di umile estrazione allo sbando e che quando finisce la battaglia mentre sta cercando salvezza, è pieno di rabbia, furioso, si legge nel romanzo, con gli ufficiali che sul campo di battaglia avevano mandato loro ad affrontare le lame abissine, mentre se ne stavano belli ed eleganti nelle loro divise inamidate a fare i voyeur nelle retrovie. La sua verità, la sua rabbia, quel senso di impotenza li ingoiò tutti con la grappa. Anche lui alla fine scese a patti con il diavolo della propaganda e alla fine si godette pure lui quel suo essere un falso eroe di una falsa patria. È molto bello, Hijaba, che tu racconti anche come moltissimi italiani di misere origini vennero mandati al massacro e la loro sconfitta, il loro rancore, la loro rabbia e alla fine il venire a patti con la propaganda. Assolutamente sì, e io ci tenevo tantissimo a questo inizio, anche perché sto diventando un po' come Hitchcock. Il libro inizia dove è finito il mio libro precedente. Il mio libro precedente è Adua e finisce a Piazza dei Cinquecento, la piazza della stazione Termini. La gente non sa a Roma che quei 500, che poi è un numero retorico, erano molti di meno, però sono legati alla battaglia di Dogali, no? Cioè non c'è proprio più memoria di questo. E quindi ho pensato, beh, forse dobbiamo raccontarli, questa famosa battaglia la dobbiamo raccontare. E io non è che mi sono inventata niente, cioè molti italiani purtroppo venivano mandati a fare le guerre, ma penso alle guerre coloniali, penso anche alla prima guerra mondiale, veramente senza sapere cosa andavano a fare, ma magari avevano proprio bisogno di soldi. Quindi c'è stato chi è stato dopo la battaglia di Dogali è stato veramente fermato, è stato impedito a molte persone di denunciare perché c'era una costruzione retorica di questa sconfitta come invece no, i nostri eroi, no? E poi questo capitolo prologo lunghissimo, in realtà è un romanzo nel romanzo per me, e dialoga con due letterati italiani. Da una parte D'Annunzio, che nel Piacere fa dire una frase ad Andrea Sperelli, che lui passa a Piazza Colonna, appunto vede i tumulti del posto Dogali e dice per 400 brutti morti brutalmente, tanto che io D'Annunzio lo metto direttamente nel mio prologo, gli faccio dire la stessa frase del suo personaggio, e questa frase aveva creato il panico, allora l'avevano appunto tacciato di antipatriottismo, lui che poi è un personaggio anche molto retorico in un certo senso. E poi l'altro letterato è Ulisse Barbieri. Non è un caso che gli uomini di questo romanzo sono pochi, ma sono molto interessanti, e uno è Ulisse Barbieri, l'altro è Frederick Bailey. Non sono nemici delle donne, sono persone, soprattutto Ulisse, che ascoltano le donne. E Ulisse Barbieri in realtà è ispirato alla figura di un anarchico realmente esistito dallo stesso nome, e la frase che gli faccio dire, ma non capite il branco di cretini che i patrioti sono gli abissini, è veramente sua. E perché volevo far vedere che non tutti gli italiani erano colonizzatori o volevano colonizzare. C'è tanta gente che non è stata raccontata, tanti italiani che sono stati anticoloniali, contro il colonialismo, soprattutto nell'Ottocento, anarchici, socialisti, parte del mondo cattolico. Quindi è chiaro, ognuno per motivazioni diverse, chi per motivazioni economiche, chi per motivazioni etiche, però era una cosa che ci tenevo tantissimo a raccontare, tanto poco che un amico mio mi ha detto, non credevo che una donna potesse scrivere una scena di guerra così, io ho detto noi donne possiamo fare tutto e voi che non pensate che possiamo fare tutto. Quindi mi è piaciuto iniziare un romanzo che poi è molto sul femminile, però con una scena molto tosta di guerra. La tua parte la fai, ma lo sai che pena mi dai, Greta Garbo di vanità. Tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento. Poi l'attenzione molto alta che tu hai qui, come in altri tuoi romanzi, per l'arte. Sì, a me ha sempre incuriosito questa presenza nera nell'arte italiana, ma non solo italiana, europea. Però nell'arte italiana abbiamo tantissimi esempi. Allora, prima vi ho parlato della Fontana dei Quattro Mori di Marino, c'è anche un'altra fontana dei Quattro Mori di Livorno, e effettivamente poi apro una parentesi, noi abbiamo deciso di mettere alcune foto fatte da Rino Bianchi, che con cui avevo fatto Roma Negata, alla fine del libro, per far vedere un po' di quest'arte. Cioè abbiamo il gondoliere del Carpaccio, per esempio, che sta alle gallerie dell'Accademia, ma la Fanù proprio dialoga con questi oggetti d'arte, con questi manufatti, con queste pitture, perché in qualche modo riracconta quei personaggi. Per esempio, una pagina importante per me quando la Fanù descrive un quadro appunto dell'otto, dove appunto c'è questa donna nera che tiene un bambino terrorizzata, e lì in qualche modo c'è un parallelismo che poi fa Lela, non a caso una curatrice d'arte, tra appunto quel terrore visto dentro quel quadro e il terrore delle donne migranti durante il viaggio. Quindi io faccio un po' di questa riattualizzazione dei quadri, perché comunque ci raccontano di spaventi, orrori, paure, schiavitù antiche, no? Che noi pensiamo sempre che, per esempio, la schiavitù ha riguardato le Americhe, ha riguardato in modo diverso anche l'Italia. Sono schiavitù chiaramente diverse, mediterranee, reciproche. Per esempio, molti cristiani erano schiavizzati in Nord Africa, penso a Cervantes, ma molti musulmani / greci ortodossi in Italia. Quindi comunque però ci sono queste tracce di schiavitù, e la Fanù le vede, e la Fanù comunque in qualche modo le riporta alla sua esperienza di donna afroamericana. Quindi io ho usato un personaggio afroamericano per scrivere in fondo un romanzo afroitaliano. Ci sono tracce di schiavitù secondo te anche nella contemporaneità, legate ai migranti, al sfruttamento, ad esempio per quanto riguarda il bracciantato agricolo? Allora, io ho questo pensiero, ma da tanto ormai, che colonialismo e schiavitù non sono mai veramente finiti, si sono solo evoluti, e questa cosa qui è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo un problema in Italia che è bello grosso, che sono le leggi sull'immigrazione, la legge Bossi-Fini, che andrebbe veramente cambiata, assolutamente cancellata e cambiata. Noi parliamo spesso solo dei decreti di sicurezza, che è una cosa di adesso, però va proprio cambiato tutto. Perché quando creiamo delle persone che a livello legislativo non hanno appigli per avere una esistenza legale, una protezione legale, allora lì apriamo proprio la porta a tutti gli sfruttamenti. Quindi io penso che in Italia servono due leggi, una riforma per la cittadinanza, per i figli di migranti, che aspettiamo da tanto tempo, e serve una cancellazione della Bossi-Fini e una vera legge organica sull'immigrazione. Prima di lasciarci, Giabba, ti volevo spingere in un'altra direzione per sapere la tua opinione su un dibattito che c'è stato negli Stati Uniti proprio di recente intorno al libro Il sale della terra di Jeanine Cummings, che racconta una storia di emigrazione dal Messico verso gli Stati Uniti. L'autrice però non è messicana, è portoricana, e questo ha fatto storcere il naso ad alcuni che hanno protestato, tanto che l'editore ha annullato il tour. C'è stato un dibattito intorno al fatto se bisogna essere per forza messicani, ad esempio, per scrivere un romanzo dal punto di vista di un migrante messicano, o se c'è una libertà narrativa dell'autore. Allora, io penso sicuramente che la letteratura è libera, ognuno di noi può scrivere quello che vuole, veramente, cioè i miei colleghi italiani che scrivono di immigrazione ben venga, non è quello il punto. E secondo me il punto che hanno sollevato alcuni scrittori latinos negli Stati Uniti, io mi sono letta parecchie cose, è l'industria culturale, cioè la costruzione di un bestseller a tavolino e anche un libro non tanto bello, scritto un po' maluccio, pieno di incongruenze, cioè non è il libro... Forse quello era il problema, i cliché, le incongruenze. È anche secondo me l'accesso delle minorities, di chi è di minoranza nel mercato editoriale. È chiaro che è un discorso complesso, dovremmo fare una puntata apposta. Grazie Giabba Scego per essere stata con noi e soprattutto per aver scritto questo bel libro. Grazie Giabba. Grazie. E grazie anche a tutti voi per essere stati in ascolto. Vi do appuntamento sabato prossimo, sempre alle 21. Buona domenica, buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao.